Essere e benessere di Nicoletta Carbone. La forza è con te, giovane Skywalker. Buongiorno da Nicoletta. Prendiamo la parola forza oggi e proviamo a declinarla. Pensiamo a quante volte da quando ci siamo alzati stamattina abbiamo fatto appello alla forza. Una parola dai mille volti in fondo. È stata la forza del dovere che ci ha buttato giù dal letto. Abbiamo usato la forza dei nostri muscoli per muoverci, uscire di casa, e tutti noi sappiamo quanta forza di volontà, sapientemente mixata forza d'animo, sia necessaria per affrontare gli impegni, le sfide, i contrattempi della giornata, i colleghi, le scadenze. Forza allora! Chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24, misurate la vostra forza e soprattutto allenatela con noi. La forza, lo sappiamo, non si può toccare con le mani, ma la si può vedere in azione. Fate un passo, provate a rispondere a questa domanda. Per fare un passo nella camminata, quanti muscoli intervengono secondo voi? 10, 30 o 200? Allora usate la forza del vostro dito indice. 800 24 00 24. Ci vuole un fisico bestiale. Allora mi devo arrabbiare. Se ti fa piacere. Che muscoli. Sei una trenta. Il mio primo set di pesi. I pesi che ti hanno trasformato da un pappamolle bavarese in una massa di muscoli pulsanti. Anche per bere e per fumare. Sì. 11. 12. Sapete, ragazzi, riesco a farne il doppio di quando ho cominciato. E guardate che addominali. Ci vuole un fisico bestiale. Un fisico bestiale. La forza forse non si può toccare, ma in molti casi si vede in palestra, al parco, adesso sulle spiagge si vedono dei fisicacci, tutti muscoli. Qui in studio con me il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. Lei è stato preparatore atletico di sportivi e di calciatori, quindi di muscoli se ne intende. Ma direi dai abbastanza, cerco di fare del mio meglio. Comunque sicuramente quella della forza è una capacità, si chiama condizionale apposta, perché si può essere condizionata. È condizionata attraverso uno specifico allenamento. In realtà proprio come forza noi diciamo che è la capacità motoria che permette di vincere una resistenza o di opporvisi tramite lo sviluppo di una tensione muscolare. Questa definizione di tecnica. Sì. Ma noi pensando alla forza possiamo leggere questa parola in tanti modi, come faremo nel corso della trasmissione, ma concentrandoci sui muscoli. Forza vuol dire muscoli, no? I muscoli devono essere scattanti, definiti, ma più i muscoli sono grandi, più sono forti? Non solo, non è l'elemento primario, perché la forza è determinata dal diametro proprio dei muscoli, quindi in questo caso dal loro volume, ma è anche determinata dal numero di fibre rapide che vi sono all'interno di un muscolo proprio, dalla capacità di reclutamento delle unità motorie, dalla coordinazione muscolare, e in questo caso parlo di muscoli agonisti e muscoli antagonisti, ossia se io prendo in mano la borsa della spesa e la porto verso la mia spalla, sto agendo con il bicipite, il famoso muscolo di braccio di ferro, quello che diventava grande. Se però pian piano questa borsa la porto verso il basso, sto lavorando principalmente anche col bicipite, ma anche con il tricipite, quello posteriore. Quindi ecco, quello che con l'età tende un po' a inflaccidirci. Per cui lei ci ha dato già un suggerimento per tonificare, perché ci sono muscoli che cadono più di altri. Allora, per tonificarli... Per tonificare dobbiamo cercare proprio di capire quali sono gli esercizi specifici. Una cosa tra l'altro carina, interessante, io credo, tra il discorso agonista e antagonista, è che lo troviamo anche nella medicina cinese, perché yin e yang lo si ritrova anche in questo aspetto, la forza. Non c'è mai un movimento che non abbia in sé un movimento yang di contrazione, con associato parallelamente un movimento yin di rilassamento. E viceversa, cioè quando noi muoviamo una articolazione abbiamo sempre simultaneamente l'intervento di una forza yang che si contrae e si accorcia e l'altra parallelamente che si allunga. Quindi contrazione e allungamento. Sì, contrazione e allungamento è proprio oscillatorio come tutte le cose della vita, sempre un aspetto che va verso l'acuto, l'altro verso il cronico, uno si accorcia, l'altro si allunga. L'importante è riuscire a combinare le due cose. Sì, perché questo determina poi la salvaguardia, per esempio, delle articolazioni. I muscoli e la forza, scusate, sono interessanti non solo per la fisicità, che è importantissima, l'estetica, ma anche per la funzionalità. Quindi se avete bisogno di consigli 800 24 00 24, perché professor Tirelli, ci sono attività fisiche che regalano un'armonia complessiva, sviluppano in modo proprio equilibrato, gentile tutta la nostra muscolatura, attività che potremmo chiamare total body, e alcune attività fisiche che sono invece più specifiche, sviluppano e definiscono invece dei gruppi muscolari più specifici. Mi viene in mente la corsa. Ecco, infatti la corsa sicuramente va a determinare uno sviluppo, un implemento delle capacità di forza degli arti inferiori, dei glutei, ma anche degli addominali. Non dimentichiamo che nella corsa è anche importante questo. Però, per esempio, sappiamo tutti che il nuoto è una di quelle attività che va a reclutare praticamente quasi tutti i gruppi muscolari, ma così per esempio come lo sci di fondo. Sono degli sport che nello stesso momento in cui attuiamo il nostro sforzo fisico stiamo reclutando tutti quanti i gruppi muscolari. Però, siccome non per tutti è possibile andare in piscina o piuttosto che fare sci di fondo quotidianamente, settimanalmente, allora si possono anche mettere in atto delle strategie. Io per esempio per due volte alla settimana posso andare a correre e quindi faccio intervenire quelli che sono i muscoli degli arti inferiori, i glutei, gli addominali, come dicevo poc'anzi, ma due volte alla settimana in casa posso farlo benissimo, faccio degli esercizi per gli addominali, degli esercizi per i glutei e degli esercizi per i pettorali. Quindi sono tre esercizi che con dei piegamenti sulle braccia, certo, con degli esercizi di accorciamento appunto del busto con le cosce, faccio lavorare gli addominali e poi i classici esercizi appunto per i glutei. L'importante è muoversi, perché se non li usiamo li perdiamo. Intendo i muscoli. In linea con noi abbiamo il professor Francesco Landi, professore di geriatria al Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore, anche ai muscoli, in fondo, vengono le rughe, un po' come succede alla nostra pelle. All'inizio sono rughe sottili, poi diventano più profonde. I muscoli, dal canto loro, iniziano a perdere massa, tono e forza. Questo è fisiologico, dobbiamo farci conti. Ma da che età inizia? Lei ha già detto molto, inizia di fatto intorno ai 40 anni. Cioè noi riusciamo, un po' come avviene per le ossa, a raggiungere un picco, come dire, di massa muscolare, cioè il massimo della nostra capacità muscolare intorno ai 40 anni. Fisiologicamente da quel momento in poi, come dire, abbiamo una certa perdita, che ovviamente, questo è estremamente importante, l'abbiamo già sentito dal professore che ha descritto le varie esercizi ai gruppi dei vari gruppi muscolari, noi questa perdita possiamo contrastarla sicuramente in buona parte con un buon allenamento. Certo, quello che è importante è, come lei ha detto, ha dato proprio la definizione più chiara, più visivamente chiara, è quella delle rughe. I nostri muscoli cominciano da una certa età in poi, intorno ai 40-45 anni, proprio a essere infiltrati un pochino di grasso, di fibrosi, quindi in qualche modo si irrigidiscono, e questo è importante perché da un punto di vista poi di intervento ne dobbiamo tener conto. Professore, più forza nella vita è lo slogan di una campagna molto interessante, volta a sensibilizzare proprio la popolazione sulla perdita di massa muscolare di cui ci stiamo occupando adesso, proprio al fine, direi, di rallentarle in modo sensibile, dando modo anche alle persone che diventano anziane di poter vivere una terza età in gamba, in buona salute, sempre in movimento. Esattamente, è proprio uno slogan che credo sia molto importante, cioè più forza nella vita. Noi fino ad oggi ci siamo occupati molto nella prevenzione dell'osso, quindi della prevenzione dell'osteoporosi, e abbiamo, come dire, poco prestato attenzione al muscolo. Quindi la sensibilizzazione innanzitutto è quella di misurare la nostra massa muscolare, la nostra forza muscolare e la nostra performance muscolare. Quindi il primo invito è quello proprio di misurarsi, di vedere qual è la salute dei nostri muscoli. Come questo possiamo farlo? Professore, voi avete, lei è coordinatore di una ricerca effettuata su oltre 500 italiani over 60 in 8 città e lì avete praticamente segnalato quali sono i campanelli che possono farci capire che i nostri muscoli diventano un po' troppo rugosi. Allora, un modo è quello, diciamo, proprio diretto, intuitivo, che possiamo vedere subito. Non so se cominciamo a rallentare la velocità della nostra marcia, a far fatica a salire un pochino le scale, a far fatica a portare degli usuali pesi, per esempio, della busta della spesa. Poi, ovviamente, però, queste sono delle indicazioni grossolane. Noi abbiamo invece degli strumenti molto più precisi. Il più preciso oggi è quello con cui misuriamo anche la densità ossea, cioè la DEXA, con una scansione total body, cioè di tutto l'organismo, o strumentazioni più semplici come la bioimpedenziometria, o ancora misurazioni della forza come l'hand grip, che è un dinamometro, una sorta di molla con cui stringiamo il pugno e misuriamo esattamente quanta forza siamo in grado di produrre. Quindi non si scappa, abbiamo tutte le possibilità per misurare la nostra forza e per tenerla allenata. Professor Tirelli, sicuramente il movimento regolare quotidiano, alcuni ascoltatori, anzi Vale soprattutto da Pistoia mi dice, chi non ha tempo neanche di farsi la barba come me, come fa quarantenne? In realtà noi oggi daremo tanti suggerimenti per muoversi anche da fermi. Sì, infatti, poi vedremo anche come ci sarà la possibilità di sviluppare forza anche da fermi. Sembra strano, sembra quasi paradossale, ma lo si può fare. Una piccola curiosità che volevo magari trasmettervi, si parlava prima di rughe, si parlava prima di muscoli, allora magari associando le due cose, pensando al viso ad esempio, il nostro volto sul nostro capo, noi abbiamo più di 60 muscoli. E la cosa interessante è che quando ci arrabbiamo, quindi quando il nostro viso diventa contratto, facciamo intervenire più di 40 muscoli, mentre per sorridere ne bastano 20. Questo ci fa capire come nella vita più sorridiamo e più allunghiamo la vita e più ci arrabbiamo e più facciamo fatica e forse l'accorciamo. Allora, professor Landi, la saluto assolutamente con un sorriso. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi. Buona giornata. Marco, buongiorno da Vicenza. Esatto, buongiorno. Buongiorno. Ma lei buongiorno. È... che muscoli domanda ha? Domanda velocissima e molto mirata. L'ho seguita e... attività fisica appena svegliati. Io per problemi di tempo, legandomi un po' a Pistoia, trovo comodo appena svegliato partire alle 7:10, fare mezz'ora di corsa, doccetta e ufficio alle 8. È valida? È salutare oppure no? Grazie Marco. Professor Tirelli. Sì, è senz'altro valida perché l'attività aerobica, quindi l'implementazione delle nostre capacità del respiro e dell'attività cardiaca associata alla funzione muscolare, è quella che ci permette poi di mettere fieno in cascina, cioè di avere più energia anche per la giornata. Oltretutto il modo migliore è anche per decantare eventuali situazioni di ansia che fin dall'inizio proprio a livello mentale potrebbero assalirci nel momento del risveglio. Quindi è un ottimo modo per allenare sia la parte fisica che la parte della forza mentale. Ecco, e noi parleremo naturalmente anche di forza mentale, di forza di volontà, perché sono assolutamente indispensabili per un buon allenamento e poi nel quotidiano. 800 24 00 24 se volete misurare la vostra forza con noi, ma anche ricevere dai nostri esperti consigli, soprattutto se vi accorgete che la vostra massa muscolare non è armonica, se vi state allenando e vedete che magari non riuscite ad ottenere i risultati prefissati. 800 24 00 24. Ma cari amici, lo sapete, i muscoli non si allenano solo in palestra. Molti personaggi dei fumetti sono campioni di forza, li conosciamo bene e sappiamo anche i loro segreti. A Braccio di Ferro basta un barattolo di spinaci per tenere testa bluto. Gli exploit di forza e coraggio di Asterix sono invece dovuti agli effetti di una pozione magica a base di erbe preparata dal druido Panoramix. Spinaci ed erbe, perché no? Ma forse serve altro per i nostri muscoli, per mantenerli scattanti, efficienti, tonici e forti. In linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Sara Farnetti, internista e nutrizionista. Buongiorno. Buongiorno. Se bene vuoi farlo lavorare, al tuo muscolo non far mancare, dottoressa Farnetti, la invito in rima. Sicuramente non facciamogli mancare ciò che è necessario per la fase, chiamiamola fast, cioè di velocità, di scatto, e quello è importante, appunto, garantire al muscolo le sostanze che lo fanno muovere velocemente. Quali sono? Soprattutto i carboidrati. E per esempio non pensiamo necessariamente, ecco, alla pasta, al riso, perché nella fase fast, quindi prima dello sforzo ad esempio, abbiamo bisogno di carboidrati ancora più veloci. Puoi fare un esempio: l'uvetta sultanina, oppure i datteri. E l'uvetta soprattutto perché contiene anche il magnesio. Il magnesio è un minerale importantissimo per la contrazione muscolare e per prevenire i crampi, insieme al potassio e insieme al calcio, sempre un minerale essenziale per la contrazione. E poi perché ho detto i datteri? Perché i datteri in natura sono, diciamo, è la frutta, in questo caso secca, che concentra il glucosio e entra velocissimamente nel sangue dopo, appunto, che l'abbiamo assunti il glucosio, e quindi il muscolo si trova ad avere una riserva pronta per essere scattante e pronto allo sforzo, a supportare poi lo sforzo, per esempio, di una, non so, di uno scatto in piscina o di un po' di aerobica, dello spinning, o comunque di uno sforzo breve. Però ricordiamoci che i muscoli devono sostenere, appunto, anche sforzi un po' più lunghi. Se andiamo in palestra, almeno certo, 35-40 minuti bisogna farli. E chi è che dà la potenza nel tempo, e quindi la resistenza, che meglio dire, resistenza ce la danno le proteine, perché se il muscolo non cresce, appunto, non lo strutturiamo, come possiamo fare? Le proteine dove le troviamo? Beh, sicuramente nella carne, nel pesce, ma ricordiamo che le proteine sono anche nei legumi, ma soprattutto nelle uova, un po' boicottate, abbandonate, certo, prese. Ma l'uovo invece è una cellula perfetta e molto utile, e quindi consumiamo le uova. Ricordiamoci che nell'albume dell'uovo ci sono delle proteine nobilissime, le albumine, che sono essenziali per lo sviluppo del muscolo. E quindi nell'uovo poi ricordiamo la vitamina D, dicevo, perché la vitamina D è la vitamina principe della salute dell'apparato locomotore, non solo per l'assorbimento del calcio per l'osso, ma proprio per il trofismo muscolare. Dottoressa Farnetti, vogliamo salire ai piani alti ed occuparci, prima di andare ai mercati, di un altro muscolo, quello della cabina di regia, a cui chiediamo grosso modo le stesse performance che chiediamo agli altri muscoli, al cervello? Infatti chiediamo ad esempio di essere scattante, dottoressa Farnetti. Allora, facciamo il nostro paniere per i muscoli e per il cervello, che è l'altro muscolo. Abbiamo detto, mettiamo insieme ad esempio dell'uva passa con un po' di datteri, questo ci dà l'energia pronta. Poi aggiungiamo dei semi. I semi contengono i minerali, abbiamo detto, importanti anche per il muscolo, ma sì, essenziali per il cervello. Faccio un esempio: gli arachidi, le noci, i pistacchi. In questi alimenti ci sono, appunto, questi semi, ci sono anche delle sostanze come la colina, essenziale per le membrane cellulari e la trasmissione degli impulsi nervosi. E pensiamo un po', anche nel tuorlo dell'uovo c'è la colina. Questo per dire che il corpo è unico, e quello che fa bene, appunto, a un apparato, anche certo, in questo caso ai muscoli, fa anche bene al cervello. Quindi se noi facciamo il nostro sacchetto con la... È facile anche da portarci dietro. Mettiamo uvetta, dattero, semi, dattero, e voilà. E invece questo per lo scatto, per la creatività. Ma vogliamo anche che l'impegno mentale sia un po' come quello che richiediamo ai nostri muscoli quando facciamo una maratona. Sto pensando ai ragazzi che adesso devono dare l'esame, primo giorno, sono uscite le tracce. Ecco, per permettere al nostro cervello di lavorare bene e a lungo, di reggere un po' la fatica, che cosa aggiungiamo nel nostro paniere? Beh, sicuramente dobbiamo mettere qualcosa che contenga antiossidanti, mantenga vivo, veloce il cervello. Allora, innanzitutto ricordiamoci la caffeina. Il caffè, ahimè, in questo momento può aiutare in piccole quantità, però attenzione, altrimenti diventa un eccitante in eccesso, sì, e quindi perdiamo di concentrazione. Per chi non tollera il caffè, abbiamo il cioccolato. Ricordiamoci che il cacao contiene ne abbiamo parlato con la dottoressa Farnetti, è a piccole dosi, quello di qualità, assolutamente un tocca sana. Grazie, dottoressa Farnetti. A voi, buona giornata. A lei. La domanda che abbiamo fatto in apertura è: per fare un passo nella camminata, quanti muscoli intervengono? 10, 30, 200. Dalla regia mi dicono che Ferdinando da Varese ha la risposta. Vediamo se quella è giusta. Buongiorno Ferdinando, benvenuto. Signora Nicoletta, buongiorno a lei. Buongiorno, siamo qua pronti a sentire un numero. 200. 200, dottor professor Tirelli. Sì, sono 200. È vero. Questo ci fa capire come anche il semplice gesto di un passo in realtà abbia bisogno di una riserva energetica muscolare importantissima, perché al di là del fatto che uno possa pensare che per fare un passo si debba muovere la gamba, in realtà all'interno della coscia, della gamba, del piede già esistono molteplici muscoli superficiali, profondi, ma poi usiamo anche in realtà i muscoli delle spalle per la coordinazione del movimento. E quindi avremo già modo di essere stanchi, basterebbe un passo. Ferdinando, Tai Chi facile a ogni età, in ogni luogo, in ogni momento, arriva dalla libreria di Essere Benessere, oppure è più orientato sulle tecniche di meditazione? Tecniche di meditazione. Allora, Ferdinando, che ci chiama... Tai Chi è troppo lento. Il Tai Chi è troppo lento. Di Fabrizio Coppola, La rivoluzione prossima avventura, come le tecniche di meditazione possono cambiare la nostra vita. Buona vita, Ferdinando, le faremo arrivare a casa il libro. Buona giornata. Professor Tirelli, noi vogliamo anche sviluppare forze e muscoli stando fermi. Sembra un po' una contraddizione, invece c'è una forza, vero, che definisce questo modo di allenarsi, possiamo chiamarlo così, ha un nome: statica, isometrica o immobile. 800 24 00 24, sorpresino, un altro libro della libreria di Essere Benessere. Ditemi quale nome ha la forza di cui ci parla adesso il professor Tirelli, suggerendoci magari degli esercizi da fare dalla poltrona, dalla scrivania, seduti. Io provo a farli subito, professore. Sì, dicevo poc'anzi che la nostra muscolatura è sia superficiale che profonda. Quella che ci interessa reclutare in questo caso è quella profonda. Allora, se io sono davanti per esempio al computer e sono seduto sulla sedia, ho la possibilità di contrarre simultaneamente per almeno 6 secondi i muscoli dei glutei, delle cosce, delle gambe, tutti insieme. Quindi simultaneamente per almeno 6 secondi una contrazione dei glutei, delle cosce e delle gambe. Perché 6 secondi? Perché è il tempo necessario minimo per poter reclutare dalla origine del sistema nervoso quelle che sono le fibre più profonde, che sono un po' più pigre rispetto a quelle più veloci, superficiali. Allora, per svegliarle dobbiamo per 6 secondi scuoterle e dire: oi, è il momento di alzarci, leva su che è l'ora. E quindi in questo momento noi stiamo sviluppando una forza, che poi vedremo come si chiamerà, molto importante. L'unico svantaggio che ha è che questa forza espressa in quel movimento, con quei gradi di movimento, potrà essere espressa sempre bene in quei gradi di movimento. Quindi in teoria cosa posso fare? Per fare altri gradi posso almeno la gamba alzarla un po' di più, sì, quasi un po' più estenderla, e fare la stessa cosa. Contraggo glutei, coscia e gamba, ma dei gradi diversi di estensione della gamba, in modo che vada il sistema nervoso a registrare il fatto che la forza anche in quei gradi è stata reclutata. Senta, ma oltre a reclutare la forza, domanda, definisco, perché lei mi tocca dei muscoli molto interessanti, almeno per noi donne. Scolpisce? 6 secondi, a forza di 6 secondi ci ritroviamo? Sì, certo, perché ragazze, solo 6 secondi ripetute, qual è questa forza? 800 24 00 24. Daniele da Milano, Claudio dalla provincia di Modena e Antonio da Torino, facciamo una resettata di telefonate. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Per chi si allena già un paio di volte a settimana con la corsa, come si può integrare per riuscire a far lavorare i muscoli che sono meno sollecitati da questa attività? Quali sono i muscoli che la preoccupano, Daniele? Quello dove noi maschietti abbiamo più difficoltà, dove si accumulano i grassi. Daniele, problema girovita, pancetta, maniglie dell'amore. Claudio dalla provincia di Modena. Sì, salve, sono qua. Eccola, anch'io sono qua, Claudio, parliamoci. La domanda, io ho sentito prima il professore che diceva che verso i 40 anni poi c'è il massimo della muscolatura, poi pian piano comincia a calare. Io ho 56 anni e ho fatto sport a 360 gradi fino dagli 11 ai 17, poi più nulla. E verso i 30 anni il mio test per vedere le mie capacità sì, fisiche, insomma, polmonari, cuore, così. Ho sempre fatto la piscina comunale, cioè la piscina olimpica, 50 metri sott'acqua. E ho continuato a farle tutti gli anni, ma non è che vado a nuotare sempre. E adesso ho 56 anni, non più tardi di ieri l'altro, ho rifatto la piscina, ho 56 anni, la faccio tutta sott'acqua, in apnea. Ed è perfetto. Non è cambiato niente, mia moglie dice sempre, stavolta ci rimani, stavolta e ci invece rimani. No, Claudio, ci mandi una sua foto che la mettiamo in costume quando esce dalla piscina. Sono normalissimo, eh? Però insomma ci ha fatto, vero? No. Vedremo... Claudio, la sua domanda però la sua domanda qual è? La domanda è questa, io non facendo nessuno sport e nessun niente, le mie secondo me capacità polmonari e fisiche non sono mai cambiate dall'età di 30 anni fino a oggi. Bravo Claudio, complimenti, e speriamo che non si avveri quello che dice sua moglie, si alleni un po'. Antonio da Torino, buongiorno. Buongiorno. Volevo solo un'informazione, è da settembre che sto andando ormai in palestra, però non ho visto cambiare tanto i miei muscoli o ingrossarsi. E vorrei sapere come mai. Meno male gli addominali sì, ma ad esempio pettorali e braccia non ne ho viste tanti crescere, nonostante da settembre vado in palestra. Grazie Antonio. E poi volevo solo sapere quando mangiare, quanto tempo prima mangiare di andare in palestra e cosa. Grazie Antonio. Professor Tirelli, la pancetta? La pancetta è il problema un po' di tutti, però innanzitutto il tipo di allenamento di uno forza... può essere forte di pancia, però sì, no? Poi spesso può avere una buona sensibilità a volte quando c'è una questione di pancia, no? Sentire proprio le cose quindi, giuste per vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma per lavorare su quella parte esercizi lì? Veloci, non lenti, esercizi che comportino anche un lavoro aerobico, quindi innanzitutto sappiamo che il tapis roulant, la corsa, tutto ciò che è anche nuoto che implica un lavoro di spendio aerobico va a reclutare quelle che sono le nostre riserve così di grassi che talvolta sono in eccesso. E per quanto riguarda gli esercizi in palestra, sono più indicati esercizi di medio peso ma con più ripetizioni. Questo perché oltre alla forza muscolare reclutiamo anche la resistenza al lavoro. Sì. E in questo caso noi quindi uniamo l'uno e l'altro. Mentre il nostro ascoltatore Claudio ci diceva faccio, vedo poco in sostanza, il muscolo non si definisce. Sì, al di là del fatto lui si allena, ha quella forza di volontà di cui parliamo tra poco con la dottoressa Monica Piccinni che è in linea con noi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta e buongiorno ai nostri radioascoltatori. Definiamo il muscolo e poi alleniamo la forza di volontà con lei. Ma va bene. Ci sono delle strutture di base genetiche che, per le quali, oltre le quali non possiamo andare. Certo è che l'allenamento può migliorare in qualche modo la definizione, come si suol dire, del muscolo. Io suggerirei questo, di usare tutti i gradi di movimento degli arti. Cioè spesso... Faccio un esempio, se prendo un manubrio, un classico peso, e lo voglio portare alle spalle, non uso tutti i gradi possibili. Allora, quando io vado a reclutare più gradi, riesco anche a sviluppare più forza. Quindi un passetto in più. Sì. Sempre un passetto in più per quanto riguarda come e quando nutrirsi e che cosa mangiare. Vi invito sul nostro, sull'archivio, nell'archivio di Essere Benessere ci sono intere puntate dedicate a questo aspetto. E invece, dottoressa, io vorrei parlare con lei della forza di volontà e della forza d'animo. Possono essere sinonimi? Come allenarli? Bene Nicoletta, allora intanto ho sentito parlare di forza fisica, ma naturalmente sappiamo bene che oltre alla forza fisica è importantissima la forza della mente, la forza mentale, questa forza di volontà, no? Che noi possiamo in qualche modo associare anche alla forza d'animo, ma che si distingue un pochino sostanzialmente in un senso di autodisciplina. La mancanza di questa forza di volontà tendenzialmente può essere fatta risalire a un'attenzione molto elevata per ricercare un piacere nel breve periodo, no? Sì. Quindi adesso, in questo momento, e invece a discapito magari di una felicità a più lungo termine. Certo, quindi vogliamo tutto subito. Ecco, e poi l'idea di fare fatica per ci scappa un po' la voglia. È un punto molto molto importante, nel senso che ogni volta che rimandiamo quello che dovremmo fare in questo momento per fare fare invece quello che vorremmo, quello che ci piace di più, stiamo anteponendo quel piacere immediato invece a una felicità o una soddisfazione che può essere nel futuro. Naturalmente diventare consapevoli di questa scelta è fondamentale, perché ci dà naturalmente la possibilità di accrescere la nostra forza di volontà. La consapevolezza da sola però non basta, come dicevamo, per raggiungere un cambiamento, e quindi proviamo magari a dare qualche, non so, qualche esercizio, qualche così alleniamo pratico. Muscoli e forza di volontà, e poi esatto. L'una allena l'altra. Grazie dottoressa. Allora mi viene in mente che per allenare quello che possiamo dire il muscolo della forza di volontà, mi piaceva chiamarlo un pochino così, sì? Oggi possiamo allora inizialmente prendere un foglio proprio realisticamente e fare un elenco delle priorità da portare a termine nella giornata di oggi. Sì. Questi si chiamano i compiti più importanti, che sia un'attività fisica, che sia uno studio, certo. Quindi leggere un capitolo di un libro, o che sia anche un compito molto più importante. Un elenco di priorità. E ne scegliamo uno, massimo tre, non naturalmente tantissimi. Tutti. Perché altrimenti non riusciamo. E iniziamo dai più semplici, da quelli che ci costano meno. Dai più semplici, da quelli che ci costano meno, perché sono quelli che ci daranno più soddisfazione averli in qualche modo raggiunti. Certo. L'altro compito è quello di provare in 30 giorni a costituire una nuova abitudine, qualsiasi essa sia, quindi non so, l'abitudine di alzarsi la mattina e di andare a fare appunto 10 minuti di corsa. Se noi riusciamo a rispettarla per 30 giorni consecutivi, poi possiamo anche scegliere di renderla una nuova abitudine positiva naturalmente, oppure magari non metterla in pratica, però a quel punto in qualche modo avremmo accresciuto la nostra autostima e anche la nostra autodisciplina. Allora ricordiamo, compito di oggi, un elenco delle priorità da fare oggi, scegliamone da una a tre, e poi in 30 giorni una nuova abitudine per allenare il muscolo forza volontà. Grazie alla dottoressa Piccinni, che ricordo è psicologa e psicoterapeuta. Buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Enrico da Firenze, buongiorno. Statico, isometrico, immobile? È isometrico. È perfetto, è isometrica. Bravo, ma sapete tutto, ma io devo stare a casa ormai. Allora, caro Enrico, anche a lei la possibilità di scegliere di pescare un libro dalla libreria di Essere Benessere, come smettere di darsi la zappa sui piedi e avere successo, libro che le consiglio, che ho letto, molto divertente. C'è sempre il Tai Chi, che l'ascoltatore precedente non ha voluto perché è troppo lento, oppure Problem Solving strategico da tasca, l'arte di trovare soluzioni a problemi irrisolvibili. Ma io avrei voluto quello sulla meditazione, non c'è verso da dire. Guardi, ripesco, si fida di me, vado a vedere, insieme a Laura Vanossi, chiusa la trasmissione, che cosa abbiamo sulla meditazione, si fida? Si fida? Sì. Va bene, allora scelgo io per lei. Enrico, lei è in ottime mani, grazie per averci chiamato. Fausto da Brescia, rapidissimo, buongiorno. Ciao, velocissimo sarò. Chiedevo un'informazione relativa ai tipi di allenamento, complementare appunto all'età anagrafica. Cioè quello che io facevo l'anno scorso, io faccio attività fisica, sono un ciclista, sì. Mi accorgo che ogni anno devo sempre incrementare il mio allenamento per riuscire ad ottenere le stesse prestazioni dell'anno prima. Questo presumo che sia dovuto chiaramente all'età anagrafica. E chiedevo se in percentuale si riesce a dare un termine di più o meno di quante percentuali di allenamenti in più io devo fare. Diamo uno spunto, se si può dare un'indicazione, se no vi rimando sul nostro profilo Facebook. Sinceramente direi che per una risposta molto precisa sarebbe il caso di conoscere che tipo di allenamento fa la persona in questione e fare delle valutazioni importanti. Allora, diciamo così, chiediamo al nostro ascoltatore di scrivere Essere Benessere, noi come sapete inoltreremo la domanda al nostro esperto, al professor Tirelli, che risponderà privatamente. Volentieri. Con indicazioni precise. Grazie per oggi, sei tu, domani noi ci troviamo come sempre. Professore, grazie per essere stato grazie con a noi. Voi. Grazie a voi, a domani.